Sì. No, con il muso, però che gonfia, mi sento una morsa. Se ascolti comunque si sente così, non te lo guardes. Via, io sa esa sensazione con il nuovo sal di punta Snua Blu. Sua avanzata forma con microgranulos attivos facilita la digestione via via a basso alestales. Ora rime solo a tutta la gases, además de digestione pesaresi de una. Alivio de una, alivio de una.